Caro ascoltatore della domenica, pensavi che ci fosse il palinsesto così col suo sbarazzino e nulla fa senza sabato, e invece ci siamo noi, certo, c'è la regia. Sì! Che non venite, che non sono più quelli che c'è chi te lo mette. Si nutrono della paura della gente, senza terra verde, la musica si riprende. E a gamba tesa in diretta, ma che è successo? Ah, ecco, io dicevo a c'era gamba ancora tesa, un po' di riverbero. Che in è diretta, qua stiamo a mangiare mandarini, questa che domenica, è successo? Ah, infatti, ma non mi avete dato il mandarino, ecco lo perché voi, siamo lo partiti voglio così io. Male, così a cavolo. Dicevo, in un orario e giorno non consueti, se me lo vuoi offrire anche a me a questo punto, i visto gustosi che mandarini, Gabriele, tu devi parlare, okay. Che fa sempre no, bene, no, di questi figurati, ben trovati comunque, buon anno a tutti in questo, ripeto, domenica 11 gennaio del 2026 radioso. Ma facciamoci un applauso, oh. Così, a caso, evviva. Mi mancava un po' di calore e mi manca anche il volume, però vabbè, questo è un problema da fonici, vero? Ok, ok, ce ne parleremo in redazione. Secondo passato me... troppo? Un pochetto oh, troppo. Ho stappato, mossi. Ecco. Quindi dicevamo champagne. I mandarini. Eravamo ai mandarini? Eravamo. No, eravamo ai saluti e quindi alla mia, non mi ricordo mai qual è, c'ho il fiocchetto destro a destra e quindi vi saluto Betta. Ciao, piccoli nerd, fa un freddo cane qui. E col fiocchetto a sinistra saluto Virgi. Buonasera gente, buonasera. Applausi continuati alla giornalista faziosa Gabri Grupi. Ben trovati. Io non mi sento. Ecco, mi mancava strano anche questo. E comunque sì, grande ritorno, non riuscirai a offuscare il grande ritorno della professoressa maestra Viola. Cosa che mi porta sulle retrovie il povero, ma non meno importante, Beautiful Mind Franci. Evviva! Evviva il ruolo di libero, evviva! Riconquista la sua posizione dietro. Ricordiamolo, vecchio... rischiando di andare a fuoco. Sono quello che chiama il fuorigioco. Io, il vecchio cioè... schema col libero, Aldair. Però peccato che non so se se lo rivendica Aldair, è stato un colpo basso forse. Ah, ma Aldair perché fa parte. Attenzione. Aldair. Attenzione, non lo so, Aldair se lo rivendica nonostante. Siamo pronti per la nuova rubrica su Aroma. Oh, ma siamo tutti qui oggi, non dobbiamo salutare nessuno. Dobbiamo salutare innanzitutto Giorgi che sta sempre qui a farci saltare la diretta poco prima di andare. Giorgi detto il disturbatore. Per la cattiveria mi è cascato il mandarino e quindi salutiamo Iron Man. Chiedo scusa. Nonché Alex. Sì. Nostra sempre intelligenza anche quest'anno. Sempre sobria. Sempre così, sobria. Sì. Non potresti si... anche dirci qualcos'altro, Alex, non so. No. Bene. Ha fatto la battuta. Risata. Che ridere. Oh. Non fare così. Va bene, ragazzi. E mentre riesco finalmente a mangiare uno spicchio di mandarino perché l'altro è finito per terra. Quello che si fa al microfono. Chiederei a colei che dispensa comunque cibo durante la diretta di fornire qualche coordinata del nuovo anno. Lo so che ti ho rovinato il momento che stai mangiando. No, in fondo questo è un po', diciamo così, sta in linea. Abbiamo giocato a tombola, ragazzi, cioè abbiamo fatto tante cose con i mandarini, adesso li mangiamo perché fino ad ora abbiamo usato le bucce, siamo ancora inclinati calcola, lì, mi sa che non ho manco detto Radio Forte 100 Celle Avengers per dire che cioè, non sappiamo proprio chi siamo, dacci un attimo di lucidità. Siamo dal soppalco, tutti qui al calduccio nel soppalco di Spazio 1 a registrare 100 Celle Avengers. Applausi calorosi a 100 Celle Avengers. Prende tempo. Sì. Radio Forte è qui con voi anche questo pomeriggio e potete ovviamente interagire con 100 Celle Avengers, come i più già sanno, ma lo ripetiamo, con il canale Telegram t.me 100 Celle Avengers. Applauso di nuovo per favore. sta faticando tantissimo, devo dire, però sta facendo tutto a memoria, una stima la vedo che suda, sta portando però, a casa allora, questa è una giornalista vera, no, sì. Non hai gli appunti, possiamo ascoltare anche la puntata, brava Viola, oh. Dai, qua, ascoltiamo le potete ascoltare le puntate precedenti anche e questa che andrà in andrà in replica. Viola, come lo racconterebbe il nostro nonno, non è vero, non è vero, non vai diretta, sì, il podcast comunque sarà un podcast, sì, successivo, sì, sarà podcast e lo volete ascoltare sul sito del Forte slash su, sì, del Forte Prenestino slash Radio Forte slash 100 Gel Avengers e trovate tutte le nostre puntate, inclusa quella di oggi. Quindi, che è la prima puntata dell'anno, sì, sì, che è la prima, oh, quindi applauso, quindi applauso, bravo. No, mi ha mandato in crisi il mandarino che mi si sta vedi che questo mandarino ci sta mettendo gli uni contro gli altri. Tu fai come lui, fallo cascare. Tra l'altro salutiamo il 2025, quadrato perfetto. Ecco la nostra lucida di secolo, la nostra lucida mente matematica. E salutiamo anche il 2026, quadrato perfetto più uno. Vero, sì. Attenzione, se la vuoi vedere così. È uno, è anche esso un quadrato perfetto. E quindi quest'anno è la somma di due quadrati perfetti. Hai visto, io questa cosa la sapevo. Attacca, brava, da dietro, Franci, vi siete messi d'accordo comunque per far quadrare sta cosa, secondo me, eh? Comunque grazie Franci perché ci dai proprio il modo di cominciare a espletare un po' le funzioni di inizio anno e quindi io avrei subito chiesto a te, come l'anno scorso appunto, cioè, ci riportava al 1936, al nazismo, cosa, perché era il quadrato di quell'anno lì. Adesso invece non c'è niente che coincide, un pianeta, per tornare... una formula matematica col 2026? No, no. Vabbè, per il 2025 2026. Qua. Fuori. Ma comunque era il 2025, non il 2026. Appunto, per quest'anno bisogna trovare qualcosa per il 2025. Non cambiare. Stessa spiaggia, stesso quadrato. Abbiamo lo stesso quadrato dell'anno scorso. C'è lo scudetto della Roma, quello annuale, il 2000, perché ha fatto tipo più punti di tutte le squadre del 2025. Attenzione, guarda che ti stai a sbilanciare oggi fra Aldair e questa cosa. Sì, no, ha detto so che la Roma ha fatto più punti nell'anno solare 2025 di tutte le squadre di Serie A, quindi tra matematica e sport, no. Il nostro matematico è dire che lo dovrei sono posseduto dall'anima di Bartolomei, tipo, e di Aldair. No, Aldair è ancora vivo. Applauso a di Bartolomei e è vivo e lotta tra noi, no? Vabbè, mo stai a guardare il capello. Ma ci sarà un momento che possiamo dire che sei da Lazio oppure lo teniamo celato come se tu fossi? No, che io celo, no, no. No, scusate, era un per capire, non per si capire. Dice, c'è papà l'aquila. Che mi sente. Comunque mai è stato così alto il livello, devo dire, cioè siamo partiti alla grande e siamo già al calcio. Comunque, cioè, lo dico perché quest'anno, questa puntata mi parte col tema, perché abbiamo... È una puntata a tema. Abbiamo per una volta subito la carta pronta senza dover fare, diciamo, brainstorming su che la facciamo, la puntata. Perché è consuetudine. È un po' di anni che c'è questa consuetudine, diciamo quasi rituale, nostra. Scorso questa cosa... E non solo nostra, posso dire, perché poi sembra che. Però vabbè. No. Anche noi. No, sembra che ci siamo inventati qualcosa, ma diciamo la ricerca, ecco, dell'unlocking, il talent scout al contrario, cercare le persone non giovani ma molto vecchie, talmente vecchie da essere morte. Talmente morte da essere morte un po' di tempo fa e quindi aver lasciato delle opere, non lo facciamo solo noi. Gratis. No, esatto, il gratis che tira, esatto. È quella cosa. E quindi appunto noi quest'anno stiamo per parlare di contenuti che raggiungono il pubblico dominio, ma non vi voglio anticipare troppo la questione, vi dico solo che questa è una cosa che ha costituito il tema per tutti, per cui tutti sarete cazziati se l'avete rispettato o meno, perché ormai io faccio un po' la paracuna, il tema pedissequamente, non è che andiamo fuori e parliamo delle cose nostre, se si stabilisce, se la redazione stabilisce, tutti mi no? Ma che pulpito! Esatto, esatto. Io c'ho l'orto e la porta. Comunque, Cassamati, quindi. Cassamati, che come di consueto, dopo questa prima scarica di cazzate, si parte con un pezzo sbarazzino, comunque anche detta musica generica, che voglia di niente. In questo caso, devo dire che non è proprio generica a caso, ma il pezzo si chiama 2100 dei The Roser, e appunto parla dell'anno 2100, mi faceva molto inizio anno, e dopo ve ne parlo ulteriormente perché so sicuro che siete curiosi, e quindi 2100. Nel 2100 l'aria tornerà. guai. E noi saremo uniti come non è stato mai. Perché lo sai, perché lo sai, tu nel 2109 sarai. Perché lo sai, perché lo sai, perché lo sai. Stai ascoltando Radio Forte e questo è Centocelle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta, mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. E sempre in diretta su Radio Forte Centocelle Avengers, abbiamo designato il tema e abbiamo ascoltato i The Rozer, come dicevo prima, in un pezzo che si chiama Il 2100 e che per me costituisce un pochino il ridare a loro quanto dovuto dopo averne parlato ingiustamente male nella mia gioventù. E questa, quindi mi sono tolto un sassolino dalla scarpa mettendo questo pezzo, nonostante che l'ho messo per la scusa del 2100, hanno... che non so di che sarà quadrato e... no vabbè qui... 45 al quadrato più 1 al quadrato, ma è semplice. Ma questo brano era in una compilation comunque nella quale eravamo anche noi Happy Noise, e quindi essendo poi stata la prima applauso agli Happy Noise, la prima compilation che facevamo nella nostra vita, essendo il primo step dopo il demo tape, la compilation con molto entusiasmo. Poi in quella compilation c'erano un sacco di gruppi di un po' tutto il mondo, e c'era ovviamente il faro d'attrazione che erano i NoFX, che avevano regalato anche loro un pezzo a sta compilation. E poi quindi c'erano tutti i vari punk italiani, tra cui The Rozer. E noi da Pischelli ci facciamo poi delle non dette classifiche, diciamo, ascoltando i vari, erano tipo i mondiali del punk, perché ci stavano tutti, il gruppo californiano, ma i gruppi australiani, austriaci, tedeschi, e quindi poi insomma li valutavamo in base alle cose che si guardavano, cioè, fondamentalmente come era registrato, perché comunque registrare era un bel, cioè, una cosa complicata, non facile come oggi. E poi che insomma il testo, loro appunto ci attirarono, cioè, nel prenderli per il culo, perché facevano i testi in italiano, avevano il coraggio che noi non avevamo, e però insomma questo testo ci faceva ridere, e niente, quindi invece loro poi, cioè, hanno continuato, e tant'è che Gabri gli piacciono, quindi diciamo a me piace molto. Ti amo quando sono ubriaco. Ti amo quando sono sbronzo. Quando sono sbronzo, scusate. Quindi vabbè, salutiamo i The Rozer che ci seguono, volevo dire questa cosa per allungare la pappa. Grandi. E torniamo in carreggiata con quello che è il tema della puntata, che è la puntata balacchiana, lo possiamo dire, balacchiano, sì, questo sì, termine, questo aggettivo, perché è stato grazie ai Cigni di Balacà, condotto dalla giornalista faziosa Gabri Grubi, che noi abbiamo preso questa strada dei diritti d'autore, in particolare di questo fenomeno del unlocking di inizio anno. Esatto, sì. Perché... E quindi io ti passo un pochino, no? La palabra. Grazie. E Cigni di Balacà, quindi è onorata di trainarvi in questo inizio anno 2026 verso questo tema, che è appunto l'entrata nel pubblico dominio di tutte le opere degli autori che sono, almeno in Italia, ovviamente in gran parte dell'Europa, che sono deceduti nel 1955. Ecco perché parliamo di morti del 55, perché per chi non sa nulla, io penso a volte ma era bello che, scoprirlo, ma... piano piano. Ma sarà una puntata un po' così. Tanto noi lo chiediamo sempre. Un po' triste. Un po' necrofila, ecco. E anche. Quindi se appunto l'autore morto nel 55, dicevo, dopo 70 anni dalla morte, vedrà le sue opere passare nel pubblico dominio. Questo accade in Italia, e questo accade dal 1 di gennaio dell'anno successivo. Ma chi è che se ne occupa di questa cosa? Ovviamente se ne occupa la rubrica di cui sopra. Che comincia così. Come ho potuto dimenticare che Cigni di Balacà ha una splendida sigla? Prego, maestro. Ma papà. Allora senti, che è uguale ai cigni dei Balagà. Balagà. Oggi ci tengo un po' le sigle, il siglismo di inizio. No, no, hai ragione. Ma spoiler, non si può, tutte le famo. Non si, così a raffica. Non si può iniziare una rubrica senza la sua sigla. E anche questo, ovviamente, fra 70 anni, cioè dopo 70 anni dalla tua morte, mi sembra brutto dirlo, ma passerà nel pubblico dominio. Questo per entrare nel vivo, cioè la cosa riguarda anche noi, che guarda tu, ovviamente produciamo dei contenuti originali. Poi in che anno abbiamo iniziato? Esatto. 2020 è facile. Sì. Anno mannata, anno nefasto. Grazie a Archive è tutto archiviato, è tutto appunto, con data. Okay. Perfetto, sì. Perfetto. E, iniziamo quindi questo anno dal primo di gennaio, vi dicevo, possiamo quindi farci coinvolgere a tutti quei lavori del passato che hanno superato la soglia della scadenza del diritto d'autore. Fino a quel momento ovviamente sono di chi detiene i diritti, generalmente gli eredi, la famiglia dell'artista ormai defunto. E quindi voglio presentarvi rapidamente alcuni di questi autori, anche ricordando che chiaramente è un argomento, una tematica che è trasversale, cioè nel senso che si sviluppa nel tempo ma anche nello spazio, e quindi riguarda non solo l'Italia e l'Europa ma anche tutti i paesi del mondo. E ogni paese del mondo, questo ovviamente l'ho detto tante volte ma mi piace ripeterlo, ha una sua specifica che vai, usanza che trovi. Grazie per avermelo sintetizzato. Pensavo in questa sigla. Massima sigla. E quindi sigla. No. No, volevo iniziare con questo aforisma che mi è piaciuto perché appunto dà valore al senso poi dell'arte. E puoi mettere anche un po' di riverbero se ti va. Ma se ti va, così è una frase anche veloce. Eccola. Vai. La bellezza generata dagli uomini attraverso la pittura, la musica e la letteratura è l'unico elemento suspense che permette di osservare. È l'unico elemento che permette di osservare il mondo con speranza anziché con disgusto. E questo è Somerset Maugham, famosissimo. Però ecco, visti pure un po' i tempi che corrono, ricordiamoci che l'arte è sicuramente salvifica, ha questa bellissima funzione salvifica. E ripetendo rapidamente quali sono le regole che ci riguardano, dicevamo che qua in Italia, quindi l'abbiamo detto, è molto facile, a 70 anni per quanto riguarda la durata di questi diritti d'autore, dopo la morte dell'autore le opere entrano nel pubblico dominio. Negli Stati Uniti, ad esempio, c'è invece la regola per cui, vige una regola diversa, per cui i diritti d'autore scadono 95 anni dopo la pubblicazione dell'opera. Ecco perché quest'anno, la sorpresa tra le sorprese che ci sono arrivate, nel mondo dell'arte figurativa ci sono due fantastici artisti le cui opere sono entrate nel pubblico dominio secondo la legge statunitense. E se ne occuperà meglio il nonno Angelo dopo con artifici, ma lo sentiremo più tardi. Siga. Si tratta di Mondrian. Hello. Nonno, eccolo lui. Si tratta di Mondrian e di Paul Klee. E li cito brevemente solo per dare l'idea di come a volte questa questione dell'utilizzo poi dell'opera, perché chiaramente una volta entrata nel pubblico dominio, questo l'ho detto ma l'ho dato un po' per scontato, non l'ho detto, e è ovvio che se ne può poi fare l'utilizzo che più ti piace, ecco, tant'è che lo abbiamo visto con Mickey Mouse l'anno scorso, appena è entrato nel pubblico dominio ne sono usciti subito videogiochi horror subito, e così zaccagnato. Esatto, e così anche con Winnie the Pooh, cioè insomma tutti i nostri personaggi un po' pure quelli più coccolosi e pagioccosi sono diventati tutto quello che la mente umana può partorire, cioè altre opere derivate appunto. E dicevo che Mondrian ad esempio in Italia è già libero dal 2015 perché è deceduto nel 1944. Volevo farvela sotto forma di quiz questa roba, però diciamo che ho detto poi ci possiamo, sì. Dico vabbè, la do direttamente io la risposta. Quindi in Italia Mondrian e le sue opere potevano essere già liberamente utilizzate sin dal gennaio del 2015. E negli States questo diviene possibile solo quest'anno. Applauso per favore, che c'ho la bocca. Ebbene. Oh. Portatevi un po' d'acqua. Un mandarino. E altri, quindi rimaniamo un po' in questa dall'altra parte, sì, diciamo nel continente americano, quindi negli Stati Uniti d'America in particolare, con questi altri due personaggi che sono passati nel pubblico dominio quest'anno. Si tratta innanzitutto, per rimanere nel mondo Disney, di Pluto. Oh. Sempre per parlare dal Dair, no? Niente, oggi sei in Roma. Ecco che lo sentiamo, questo simpatico cagnolone. Simpaticone. Sì, che tutti lo conosciamo, il cane di Topolino, il fedele amico di Topolino, che è l'unico, tra l'altro, della cricca a non avere una posizione eretta e nella facoltà di parola. Ecco questa cosa. Cane dell'amico delle guardie. Sì. Ma anche in questo caso non è proprio il Pluto che noi tutti conosciamo ad essere libero dal copyright, ma la versione ovviamente che è stata pubblicata nel 1930, i famosi 95 anni fa in sostanza, che è il Pluto che compare nel cartone animato Il Picnic di Topolino. Non ne abbiamo una, no, un estratto. L'albero di Pluto, se volete sentire. Ma io sono Pluto in gambe, ma io sono Questo è questo per la spoilerata. Ecco. Vabbè, niente, voglia di Pluto mi ha fatto andare oltre. Questa voglia di Pluto, che nel 1930 si chiamava però Rover, non era Rover. Neanche sì, non aveva neanche lo stesso nome. Rover. E pensate un po', era il cane di Minnie, non era neanche il cane di Topolino. Mazza. Di questo personaggio oggi si può fare di tutto, ecco, di questo per specifico caso un horror. Anche per caso un horror. E, però anche per la legge americana ci sono comunque delle condizioni, non è del tutto libero, perché la legge riguarda il copyright ma non il marchio, quindi significa che è possibile utilizzare l'immagine di questo primo Pluto, che si chiamava Rover, in un film ad esempio, ma non si possono vendere le spillette o le magliette con quel Pluto spacciandole per prodotti Disney, cioè in sostanza il marchio della Disney ovviamente è fuori da tutto questo. Cioè, mi pare che sto discorso. Disney è come un vecchietto rapinato in un vicolo che però caccia le cose piano piano, resiste al rapinatore che gli punta l'arma e gli dà prima quelli che c'hanno lo stivale, poi vabbè, c'ho pure questi. Anno ricordiamo dopo che hanno fatto il Mickey Mouse, c'è stato il Mickey Mouse Act nel, mi pare, 94. Si è allungato la vita, sì, assolutamente ad persona, ma queste leggi. Bene, passando al secondo personaggio, sempre americano, passato nel libro, nel pubblico dominio, sentiamo prima l'estratto, va, vediamo se lo spoiler, ricordate lo spoiler, vediamo se lo riconoscete. Inconfondibile. Anche amore. Carina. Pensavo ci avessi messo anche Valiant. No, invece era Spider-Man. Si parla, si tratta di Betty Boop. Questo personaggio immaginario dei cartoni animati che è stato appunto ideato nel 1930, anche se poi è stato realizzato compiutamente nel 1932 e si è ispirato, ricordiamo tutti, ecco, Betty Boop, sicuramente ognuno di noi ne ha un'immagine, al di là di chi ha incastrato Roger Rabbit. Infatti quello stavo pensando. Di cui abbiamo sentito che riguardava il contributo di prima, e è stata protagonista di film di animazioni, tutta una serie di fumetti degli anni 30, e come personaggio ha esordito appunto nel 1930 nel cortometraggio Dizzy Dishes, di averlo pronunciato bene, prodotto dai Fleischer Studios. E delle curiosità che ho trovato qui e lì, che la, ad esempio nel link incastrato Roger Rabbit, il doppiaggio, quindi la voce italiana, era di Wanda Tettoni, a cui farei un applauso solo per il cognome. Esatto. Risata. O che ridere. Mentre nei corti cento celle cine panettone. Le curiosità c'è. Sì. Brava. Bucia le culo. 23. Giusto. Mentre nei corti della Fleischer Studio la voce era di Veronica Pivetti. Una magnifica Veronica Pivetti. Nel 34 però, ecco, il personaggio è stato attaccato da alcune proteste del pubblico conservatore, e tant'è che è stata obbligata, diciamo, ne hanno cambiato la caratterizzazione, per cui è diventata sostanzialmente una casalinga, cioè una Betty Boop che vestiva comunque i panni della casalinga. Sì, è vero. Sì. Ciononostante è entrata comunque nell'immaginario della storia del fumetto e del disegno animato come massima icona della Flapper degli anni ruggenti. E di questa Flapper vi chiedo se sapete di cosa si tratta. Io l'ho appreso appunto con... È un movimento degli anni ruggenti, creato appunto, nato negli anni 30... Sì, a partire dagli anni 30, che comprende quindi nell'immaginario di queste donne dei paesi anglosassoni riconosciute negli anni ruggenti per la loro scarsa tenuta morale, che si caratterizzavano per il trucco, per l'abuso degli alcolici, la sessualità degenerata. E quindi, insomma, Betty Boop è diventata l'icona di questa, di questo movimento. Che se non sbaglio, lei, cioè, la figura di Betty Boop era ispirata a una ballerina famosissima, cioè poco famosa, però bravissima, che però morì male. Quella che ha chiesto esatto, i soldi. Attenzione. Esatto. È proprio quello spoiler. Che sì, sì, sì, ricordi bene, perché è stata ispirata a questa Ellen Kane, che era una cantante che nel 1932 fece causa alla Fleischer, alla Paramount Publix Corporation, per $250,000. Uè. Proprio perché sosteneva che era stata sfruttata la propria immagine con una deliberata caricatura della propria immagine, appunto della sua personalità. Fleischer si difese sostenendo che il suo era un personaggio di pura fantasia e che in realtà la Kane non era l'unico modello di Betty Boop. Anche quest'altra tale Clara Bow, la star della Paramount, poteva essere considerata come una Betty Boop, effettivamente. E alla fine ha intentato una causa, ma al processo ha perso la Kane. Perché sì, perché per il giudice la tecnica baby, che sarebbe, insomma, si richiamava questa un po' il linguaggio dei bambini, quindi chiamata tecnica baby, per il canto, ecco, nel canto non era nata con la Kane, ma era una roba precedente, per cui la cantante perse la causa. Eh sì, è andata così. Dopo avervi raccontato di questi due personaggi a noi cari per un motivo o per un altro, io ragazzi vi mando, passo, penso che avevamo detto supponiamo, anzi, vi mando supponiamo che il brano che volevi mandare non fosse presente nel nostro database, faccio una supposizione, ma sono sicura che nel nostro database ci sono brani all'altezza di quello che io avrei voluto mandare. No, purtroppo non c'è, potremmo prendere l'occasione visto che appunto era previsto il continuum di questo, sì, di questa, allora facciamo il continuum per far sentire comunque un brano, ma sul quale purtroppo vi devo ancora delucidare, insomma, un pochino raccontare. Allora prima ci delucidi? Sì, no, volevo soltanto dire che io da primo della classe odioso ho fatto le ricerche, mi sono sbattuto su questa questione dei morti del 55, sono andato a spolverare le teche e niente, ho rinvenuto un documento, una roba forte, che quindi sono emozionato per quello. Sì. Che cioè, mostra comunque la attribuito che viene addirittura attribuito a un autore che, cioè, poi adesso guardo Viola, poi capiremo perché niente meno di De André, che è abbastanza famoso, ecco, un pochino, ecco, ma sono quei pezzi che poi sai, quei manoscritti che non si sa bene, le registrazioni fugaci che vanno perse e poi però che si ritrovano. Perché questo pezzo mostrava un'autoconsapevolezza del movimento, diciamo, artistico, il movimento artistico dei morti del 55, il movimento soprattutto dei ricercatori di diritti, cioè comunque non è sempre così, a volte i movimenti artistici vengono etichettati anni dopo, cioè, sono altri a chiamarli in un certo modo, loro invece lo dicono, siamo i morti del 55. E già De André lo diceva, e già De André poco dopo, perché ovviamente ha potuto testimoniare tutto questo periodo, lo ha messo in canzone. Io non vi rubo altro tempo e ascoltiamo questo pezzo che ci aiuta anche un po' a capire quello che la giornalista Capigrubi ci ha appena spiegato. Che hai fatto? Posso anche dire, volendo, sigla. Altro che audaci, si dicono essere gli avvoltoi di vecchie carogne rapaci, or ben quelli lì siamo noi, che subdoli seguiam le sorti di grandi artisti del passato, e noi al par dei beccamorti scopriamo cos'hanno lasciato. Ricordo del 55, si narrano fatti di sangue, è un anno che di rosso si tinge, ma ricordo quello no, non si estingue, dei grandi artisti caduti, che sempre furon ben voluti. Quest'anno vogliamo i tributi, i diritti oramai son scaduti. hanno le avare famiglie che vissero sulle sue spoglie, sembran quasi vere le doglie, un brivido ratto li coglie, camparono grazie alla vecchia canzone di grande successo, ma ora è finita la pacchia, 70 anni fa fu il decesso. Eppure v'è un posto lontano ove attender la morte è vano, credetemi, disse, son serio, loro adottano un altro criterio, perché nel nuovo continente non serve che muoia la gente, dicono sia sufficiente un certificato attestante la data di pubblicazione vecchia di 95 anni, ottieni la liberazione dell'arte senza troppi affanni. E quindi vogliamo oltremare, perché c'è chi non s'accontenta, le perle possiamo trovare nel 1930. A dispetto delle male lingue, non l'avevo mai ascoltati, hanno il gusto dei sogni rubati. Ora insieme leggeremo i nomi di menti celebri che hanno animato, morendo, il 1955. Che mi sia concesso nel rituale avere il primo nome, solo che non lo riesco a leggere, quindi il secondo. Ettore Rossi, orientalista. Angelo Mercati, storico, bibliotecario, sacerdote, traduttore dal tedesco. Giovanni Napolitano, poeta e saggista. E Ottavio Tibi e che cos'è? Ah, etnomusicologo. Filadelfa Insolera, matematico. Mi sono persa il matematico. Scegliene una. Pesca. Romido Moiro, magistrato, storico, scrittore, dirigente, sportivo, piastrellista. No, piastrellista no, sto scherzando. Questa, scusa, questa grazie perché era una cosa importante per me. Grazie, questa era con o senza la BFM? Era, era da solo questo, era senza, suppongo. Era senza. Mentre si ripristina lo studio su Radio Forte 100 Celle Avengers, l'emozione è stata tanta e quindi a questo punto io diciamo che vi lascerei di nuovo, volendo, con sempre una roba sul pezzo, cioè un pezzo sul pezzo. E datemi tempo di capire chi sono e perché. Un minuto, allora, di silenzio per i morti del 55. No, non ci sapevamo, potevamo giocare così. Si è rotto tutto, ma e di nuovo? Allora, niente, era anche l'anno di questo brano qui che adesso noi potremmo ascoltare, che è Georgia, On My Mind, reso famoso da questa versione di Ray Charles, ma in realtà scritto da Romildo no, no, quello è tennista. Hoggy Carmichael e Stuart se non sbaglio è quello che suona in Casa Blanca. Quello che suona Beccale sti spicci. Mamma mia, oh, cioè, ma, e comunque mi ha fatto pensare a quest'altro pezzo che in realtà sentiamo questo e con questo ti lasciamo. Grazie Cigni di Balacapi, saluta anche questa volta, scherzoso come sempre. Tematiche e quindi leggere. Questo è Giorgio. Su Radio Forte, certo c'è Avengers. Oh Giorgio del Lago Maggiore, Giorgio mi vuoi tu portare ad Ascona, ad Ascona sul Lago Maggiore, col chianti, chianti, chianti, chianti, chianti, potremo mangiare risotto, risotto, risotto, risotto, risotto, risotto, risotto. Oh Giorgio, se tu vuoi portarmi ad Ascona, devi offrirmi con tutto il tuo cuore, il tuo amore, tanto amore. Oh Giorgio, Giorgio. Un ristorante in piazza. Cameriere? Signore? Signorina? Per favore. Un espresso? No, vino. Oh Giorgio. Il mondo della radio è un pasticcio. Radio Forte, 100 Celle Avenger, è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Radio Forte, 100 Celle Avengers, di nuovo in diretta, è il momento di dare spazio al passato, anche se mi sembra che io sta mal da, cioè comunque, però c'è qualcuno che lo fa proprio di mestiere, se posso dire, quindi passo la parola a Virgin. Grazie di avermi passato la parola. Noi oggi con All'Epoca andremo un pezzetto più avanti rispetto a quei morti lì del 55, perché andremo a parlare invece degli anniversarioni dal 56 in poi. In questo anno bellissimo che arriverà e che ci presenterà, che ci verrà presentato, insomma, dalla vita, noi avremo gli anniversarioni di questi brani. E adesso però iniziamo con la sigla. Era una nuova diavoleria moderna. All'epoca a Roma non c'erano motorini con questi scalmanati, ma c'erano i silobus. A me piace molto questo programma di Paolo Limiti. All'epoca. Eccomi qui, come la vostra solita novella Paolo Limiti, per farvi capire più o meno, diciamo, di base quanto siamo invecchiati, quanto invecchiamo, o comunque le canzoni che ci piacciono, quante anni ci hanno. Quante anni ci hanno? All'epoca. Quanti anni? Se non quanti anni c'hai te, la roba che te senti te. È una roba, sì. Parleremo anche di quell'anniversarione lì, tra l'altro, perché ci saranno, cioè, parleremo anche dell'86, anno meraviglioso, magico. Facciamo un applauso all'anno 1986. Lo faremo anche dopo. I loro nati. Esatto. E iniziamo subito con delle piccole carrellatine per farvi capire più o meno le annate, come andavano avanti, una sorta di piccola Top of the Pops. Partiamo dall'anno 56, in cui avevamo il primo album di Elvis Presley, per esempio. È uscita Roll Over Beethoven di Chuck Berry, ancora altri esempi. I Walk the Line di Johnny Cash, che sarà Sera di Doris Day. Altri album, Bebop Lula, Long Tail Sally, The Great Pretender. Abbiamo un sacco di brani e quindi farei una piccola carrellata per ricordarceli tutti quanti. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down to the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. Tuo padre americano, americano, americano, ma si nati in Italia. Yes, baby, woo, baby, che sarà, sarà. Ma quanto mi piace fare le carrellatone a me. E infatti la risentiamo. È talmente, sì, scusami. Non ancora sazi. Passiamo al 1966, ovvero le canzoni o gli album che oggi compiono 60 anni. 60, tra cui l'album che io ritengo il miglior album mai fatto nella storia della musica, ovvero Revolver dei Beatles, competizione dura con Pet Sounds dei Beach Boys. Non soltanto, insomma, porto acqua al mio mulino, come potete vedere, e ci saranno tante altre entrate, quindi chiederei al maestro subito di mandare la carrellata del 66. Mi piace chiudere questo anno con una citazione che non ricordo in maniera letterale, ma che mi è stata fatta direttamente poco tempo fa, ovvero quando mi è stato regalato il vinile di Revolver originale del 1966 per i miei 40 anni, in cui mi è stato scritto sul biglietto che entrambi, sia io che Revolver, ce li portiamo molto bene questi anni, e il complimento me lo prendo più su Revolver che su... Ma hai fatto gli anni, per caso? Ho fatto gli anni, ho fatto gli anni, e questo... Nata nell'86, infatti 40, ma il punto fondamentale è Revolver, che ne ha fatti 60 e se li porta molto molto meglio anche di me. Anche tu, Virgi, sei una gran fregna. Cioè, posso dire una cosa? Si può dire in radio. Si vede che sei cresciuta, perché cioè, oggi è una giornata incredibile. Franci che è della Roma, e tu che metti i Rolling Stones. Hai visto all'inizio che non sono di parte? Dove ci stanno pure i Beatles. Vero? No, ma perché? Sei cresciuta. Mi prendo due minuti per dire che per me il 66 è l'anno migliore della storia della musica, compreso il pezzo dei Rolling Stones, che per me è il loro pezzo più bello. Quel pezzo è quasi perfetto. Purtroppo bello, dentro sì. C'è un sitar che non è, diciamo, farina del loro sacco. Ma andiamo subito al 1976 con la carrellata. Prego, maestro. E non Hilbert. Annone, prego. Chi prego. È? No, dico Beckham. Chi è? Sì, Pietro, sì, spicci. Annone pure 1976, anno in cui appunto noi abbiamo gli anniversari dei brani che compiono oggi 50 anni, e anno di uscita di Songs in the Key of Life di Stevie Wonder, per esempio, oppure proprio dell'album degli Eagles del California. E appunto abbiamo un sacco di roba. Ecco, l'album dei Ramones, l'album di Jaco Pastorius uscì proprio nel 76, quindi la musica ha proprio fatto un qualcosa. Come? Atterrare sì, la partita. Mi ha rubato la parola, non sapevo più che dire. Ho fatto una roba. Va bene, no? Sì, certo, era perfetto. Passiamo subito ovviamente ai brani che compiono 40 anni nel 2026, come la sottoscritta, e quindi come non parlare di questi intro fantastici. E infatti secondo me l'anno 1986 è l'album delle intro di brani più fighe di sempre. E prego, maestro. Oh madonna, sono commosso, caro. Prego, prego. Yeah. Kiss. Cioè, mamma mia. Che pezzoni. Tanta roba. Quanta musica si scopre quando fai queste cose. Pissenza, mi sono commosso, cazzo. Lo so. Sapevo che ti avrei preso. Se posso dire, è bella questa cosa, perché si vede anche molto rapidamente il passaggio dagli anni 50, poi 60, poi 70, 80. Cioè come cambia la musica. Esatto, l'evoluzione dei suoni. Questa è una cosa con cui faccio i conti sempre, perché la mia testa ragiona sempre così. Cioè ogni volta che sento un brano io lo inserisco, lo incasello nell'epoca. Esatto. E quindi questa cosa mi aiuta anche a non impazzire queste classificone. Ma io perché a fare il punto della situazione. Esatto. Nelle notti insonne. Ogni gennaio di ogni nuovo anno. Esatto. E a proposito di quanto sono stata brava a aver messo i Rolling Stones, ma anche aver messo dai del metal nelle classifiche, quella roba là, tantinello. Passiamo al 1996, ovvero 30 anni fa, in cui c'erano ovviamente le magnifiche Spice Girls, ma non solo, vi stupirò, prego. Oh, i Beatles. Cappellone. Beh, adesso qualcuno alzi la mano, cioè alzi la mano chi pensava che Virtual Insanity avesse meno di 30 anni. No, in realtà me l'aspettavo, perché vabbè. Sì, porta mi male. Guardavo ancora MTV, quindi sì, ci sta. Vabbè, è vero, sì, è vero, c'hai ragione. È vero, mi dovrei basare anche su quali video vedevo. E quindi nel 96 noi abbiamo, quindi 30 anni fa, il primo album delle magnifiche Spice Girl, che io non smetterò mai di far sentire a tutti. Abbiamo anche, sì, l'ingresso nella musica degli Oasis con Don't Look Back in Anger. Vedete, non lo so, non lo riesco a fare, non lo riesco a dire. Non mi offendere gli Oasis, eh? Guarda, se vuoi, c'ho un paio d'ore. No! E abbiamo il secondo album, ma quello che lo consacrò al successo satanista, satanico di Marilyn Manson. E più niente, svariate altre cose, tra cui gli album dei Korn. E passiamo direttamente al 2006, ovvero 20 anni fa. Quali sono i brani che oggi compiono 20 anni? They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Mia. Bello il basso. Minchia, Crazy a 20 anni. Crazy a 20 anni. Sì, questa è una di quelle che mi ha lasciato proprio brutta. 20 anni. Sì, io Crazy non so perché me la ricordavo più vecchia. Più vecchia? Sì. Più giovane. Non so perché, cioè ricordo del video più vecchio, non lo so perché. Ne hanno fatti due effettivamente. Ce n'era uno che è stato una sorta di promo. Quello che avete visto adesso è, cioè che conosciamo tutti, è uscito dopo. Chi l'ha visto? Sì. No, però sì, questo è proprio l'anno di uscita del brano. A meno che io non mi sia sbagliata, ma la vedo molto dura su questa cosa. No, scherzo. E quindi altri. Sì, che cosa abbiamo appena sentito? Abbiamo sentito Stadium Arcadium dei Red Hot Chili Peppers. Cioè albumone, uscito così, doppio album se non sbaglio, no? Uscito così 20 anni fa, che per me è tipo l'ultimo album che hanno fatto, non lo so, io non mi ci raccapezzo con queste cose. Californication. E quindi sì, abbiamo. Ah, e poi abbiamo anche questo grandissimo musical, ovvero High School Musical, è uscito 20 anni fa. 20 anni fa. Quindi tutti i bambini che vedevano High School Musical prima adesso hanno più, cioè 20 anni più l'età che avevano. Madonna, signora mia. Sì. Tra l'altro ne abbiamo una nel laboratorio, cioè Sofì, che sta in fissa se non sbaglio. Comunque. Che gioventù. Sì, troppo giovane, troppo giovane. Ok, brani che sono usciti ben 10 anni fa. Prego maestro. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I've got 100 million reasons to walk away. 24 karat magic in the air. Hands are so bare. Bene, di questa categoria fanno parte tutte quelle canzoni, tutti quegli artisti che per me sono nuovi, sono gente che ammazza, ma te senti sta musica nuova, Bruno Mars che c'ha una carriera decenna quindicinale, non lo so quanto, o Sia, la stessa Sia, io quindi sto veramente molto indietro, assolutamente non al passo con i tempi. E un altro album, per esempio, ecco, un altro album, un altro brano che è uscito è Shape of You di Ed Sheeran, che c'ha 10 anni pure, sì. Quella. Sì, più... niente, sì... Questi. Ah, Lemonade di Beyoncé, per citare Beyoncé, perché è importante citare sempre. Salutiamo Beyoncé. Julie. Salutiamo Beyoncé e Julie. E vi saluta Manlio che ci sta ascoltando. Grande Manlio. Ciao Manlio. Oh, finalmente un esempio di amico che interagisce. E i vichinghi di Frigene. Esatto. E quindi noi abbiamo concluso questa carrellata di pezzi dal 56 a oggi che compiono questi anniversarioni. Così ci facciamo pure un'idea su quali cose possiamo suonare, su quali cose possiamo portare nei laboratori, per esempio, o semplicemente ascoltare per puro piacere, cosa che è anche giusta. E vi lascio con un brano che invece è nelle classifiche mondiali proprio oggi, all'inizio del 2026. Quindi torniamo indietro, siamo arrivati al giorno d'oggi. E il brano in questione è Blinding Lights dei The Weeknd, che avrete ascoltato sicuramente sempre, tipo ovunque. Entro subito in voce con una piccola errata corrige per... sì, purtroppo ho sbagliato. Basta. E questo pezzo era un po' più vecchio e non so assolutamente dove ho trovato il fatto che fosse ancora nelle classifiche, ma vi è andata bene perché avete lisciato per un pelo Esibizionista di Annalisa, che sicuramente questa è uscita mo. Quindi, prego! Radio Forte, Centocelle Avengers, dopo questa errata corrige, ma soprattutto dopo che ci ha regalato con questa rubrica grandi sensazioni, quelle che appunto anche queste sono importanti a inizio anno, hanno il sentirsi vecchi a inizio anno globalmente, senza avere in più appunto quando c'è il bonus del compleanno, cioè capisco Virgi che si vendica su tutto il suo circondario, sì, dicendo se io mi sento vecchia perché voi dovete sentire. Esatto, poi e 40 quindi, fatti sotto Natale all'inizio dell'anno è un momento di bilancio di tutta la vita, perché non farlo fare a tutti? tutti. Cioè, esatto. Grazie, grazie. Questo volevo dire, grazie, fare anche un applauso. Grazie. Tanti auguri ancora, tante tante care cose. E è il momento di... Torniamo sull'argomento, direi, di stare sul pezzo, il momento di stare sul pezzo. Ma... ma non sono morti del 55, sono i pubblicati del 1930 questi. Giusto, ormai abbiamo fatto chiarezza in lungo e in largo e poi è arrivata Virgi con i suoi compleannoni a 10 a 10, quindi ci ha sparigliato un po' le carte. Niente, che, sì, cioè, sembra una lezione di Franci che ancora deve arrivare. Dai numeri, però stiamo dando è complicato un po' starci un po' presso. Però... noi siamo una trasmissione nostalgica, comunque, che guarda tanto al passato. Anche, ecco, questo anche. È sicuro. Noi siamo in generale proprio la odiosi. Forse è la nostra generazione così. Vabbè, apriremo anche siamo una rubrica stati così di psicologia. Comunque, dai, è stato sul pezzo. Eccolo. È stato sul pezzo. Nonnino. Salutiamo il piccolo Filippo. Salutiamo nonno. E salutiamo nonno Allolo, che torna a parlarci di Mondrian e di Paul Klee, in particolare, proprio perché li abbiamo citati. E torna quindi ad iniziarci con una puntata di Artifici fresca fresca. Sigla! Grazie Angelo, grazie Angelo, non conoscendo affatto la storia dell'arte. Grazie Angelo, grazie Angelo, sempre gradevole, sempre importante. Grazie Angelo, grazie Angelo, ma ancora vorresti narrare la storia dell'arte. Amiche ed amici, bentornati ad Artifici. Oggi parliamo di arte moderna. L'arte moderna, abbastanza risaputo, trova meno sostenitori ed estimatori rispetto all'arte dei periodi precedenti. E un tempo addietro, scrivendo pochi versi, ho cercato di trovare delle motivazioni a questo fatto e ho scritto questo. Arte moderna. Fino al Novecento l'arte è il monologo dell'artista che si racconta a chi lo guarda col linguaggio della natura, viva o morta che sia. Poi diventa una sfida tra chi la fa e chi legge nel raccontar se stessi. Perciò non è facile capirla e amarla. Dare come indicazione inizi del Novecento, come epoca in cui insorge l'arte moderna, è una convenzione, anche se è indubbio che il Novecento sia stato il secolo in cui si sono sviluppate tutte le forme dell'arte cosiddetta moderna e in tutte le sue espressioni, pittura, scultura, musica, poesia e letteratura in genere. Naturalmente, per come accade per molti fatti, molti eventi, è difficile individuare il momento in cui si passa da una situazione all'altra. Il passaggio è come definire il passaggio fra la notte e il giorno. C'è sempre un periodo di sfumato. E nella storia della pittura si assiste, anche nella storia della pittura, si assiste ad una costante evoluzione degli stili e delle sintassi narrative. Ogni tanto poi capita che avviene un qualcosa che inequivocabilmente costituisce un punto di frattura col passato. Per quanto riguarda la pittura, ritengo che probabilmente l'impressionismo abbia segnato un punto di non ritorno e un punto di frattura notevole con il passato. Da lì, attraverso i vari Van Gogh, Cézanne, i Pontinisti ed altri, insomma, si è avuta un'accelerazione nel corso della quale sono poi spuntati, ma non sono spuntati come funghi, cioè sono stati prodotti dall'evoluzione stessa, l'arte di Picasso, di Braque, poi gli astrattisti, gli espressionisti e tante altre correnti, figlie tutte di un concetto abbastanza pregnante espresso da Picasso in riferimento a Cézanne. E diceva Picasso: abbiamo rinunciato da tempo alla pretesa di continuare a rappresentare le cose come appaiono all'occhio. Seguiamo l'esempio di Cézanne e costruiamo quadri con i nostri motivi. La nostra meta è costruire qualcosa piuttosto che copiare. Non tutti gusteranno questo gioco e non c'è ragione che lo facciano. Tutti vogliono capire l'arte. Perché non tentano di capire il canto di un uccello? Ecco, questa era alcune frasi e concetti espressi da Picasso che io ho un po' estrapolato da varie interviste e articoli. Su questa scia, per esempio, Kandinsky, 1866-1944, fu il primo ad esprimere un quadro che non rappresentava assolutamente alcun oggetto identificabile. Quindi c'è veramente il gioco di cui parlava Picasso, cioè noi costruiamo, non vogliamo copiare. E Kandinsky è arrivato al punto limite, diremmo, di stendere sulla tela semplicemente delle forme. E lui era un mistico, appassionato anche di musica, e mettendo in rilievo gli aspetti psicologici del colore puro, disse a sua volta: il rosso vivo può colpirci come uno squillo di tromba. Era il 1910 ed era nata l'arte astratta. Un suo amico, a sua volta poeta, pittore e musicista, era violinista presso l'orchestra di Brema, si applicò alla scoperta di nuove soluzioni dei problemi cosiddetti formali. Cioè ritenevano che la forma sia più importante del soggetto, cosa totalmente difforme da tutto ciò che veniva nel passato, allorquando il soggetto era l'elemento principe di ogni rappresentazione. I vari committenti non chiedevano ai pittori di mettere su tela delle forme, chiedevano di mettere su tela dei soggetti ben precisi e davano delle precise indicazioni su come dovessero essere rappresentati quei soggetti, soprattutto nell'arte sacra, dove vigeva e per lungo tempo ha imperato la regola secondo la quale la Madonna andava fatta con la mantella azzurra e la veste rossa, e Giuseppe con una sua connotazione grafica ben determinata, e Gesù Cristo alto, biondo, occhi azzurri, secondo la moda occidentale, dimenticando che in realtà si trattava di un semplice palestinese. In una conferenza a Weimar, dove era stato chiamato da Walter Gropius, architetto tra i fondatori del Bauhaus di Weimar, Paul Klee disse che aveva cominciato a mettere in rapporto tra di loro linee, ombre e colori per ottenere quella sensazione di tutto a posto, cioè di equilibrio, che è il fine di ogni artista, e sosteneva che la pittura è costruzione come l'architettura. Lungo questi percorsi si arriva, ma non in maniera cronologica, cioè che sono tutti coevi più o meno, sono tutti nati nella seconda metà dell'Ottocento e morti nella prima metà del Novecento, questi artisti di cui stiamo parlando. E quindi Mondrian cominciò a costruire i suoi quadri con gli elementi più semplici, linee rette e colori puri. Sicuramente avete in mente le sue tele caratterizzate da forme geometriche piane, tutte ad angolo retto, quindi quadrati o rettangolo, con colori diversi per i quali lui sperimentava, e quindi il blu, il giallo, il rosso e ampie cambiature di bianco. Per intenderci, dalle pitture di Mondrian è venuta fuori a livello poi di design tutta quella moda per la quale sono state realizzate camicie, vestiti, giacche, gonne a quadroni, ma fino alle tovaglie per la tavola, ai tovaglioli, ai fazzoletti, cioè i quadroni con colori vivaci, colori puri, si rifanno un po' tutti quanti allo stile di Mondrian. D'altra parte, anche Mondrian, come Kandinsky e Klee, era un mistico e voleva che la sua pittura rivelasse la realtà immutabile delle cose, al di là delle semplici mutevoli forme dell'apparenza sensibile. Per questi artisti, in sostanza, l'arte coincideva con una esperienza religiosa. D'altra parte, Friedrich Schelling, 1785-1854, uno dei massimi esponenti dell'idealismo tedesco, un secolo prima aveva teorizzato che l'artista è un collega di Dio, perché collabora con lui alla creazione della realtà. A Roma direste, me coglioni. Grazie, buona continuazione e alla prossima. E ringraziamo Angelo per il contributo e facciamo un ponte, un piccolo ponte insolito dopo Artifici, sempre a tema, e quindi però cioè, purtroppo vi devo tediare con la sigla. So I'm just scared for you. La breve. Sigla di Suana, grazie al cielo, era breve. E, ma dopo ne avremo una molto e serviva, più lunga. Mi serviva più che altro per dire che appunto questa edizione di Suana Jazz Cares for You non è dedicata alla didattica on radio questa volta, ma soltanto a giustificare appunto questa sigla, sempre quella. E, in tema con il nostro tema, perché la canzone che andiamo a scimmiottare, cioè My Baby Just Cares for Me, mia è pure lei del 1930. E sono scaduti i diritti. Un applauso, vabbè, no. Un applauso al 1930. E nonostante noi la si conosca per l'esibizione, per l'interpretazione di Nina Simone, ovviamente non è sua, come al solito è un altro nome che però tornerà, quindi ve lo dico, è Gus Kahn. Gus che sta per Gustavo la pizza Kahn. Che tornerà più avanti. Tornerà più avanti e non vi dico altro, nel senso che adesso vi devo ulteriormente annoiare dicendovi che questa edizione del pezzo, questa interpretazione del pezzo avviene grazie a un artista che la fece qualche tempo fa. Biascicone l'arrangia per noi. Non fare così. Biascicone l'arrangia per noi. Ti butti sempre giù. Biascicone l'arrangia per noi. Biascicone l'arreda per noi. E quindi di Nina Simone e Gustavo la pizza Kahn canta Biascicone, My Baby Just Cares for Me. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care. God's and crazy. My baby don't care. I don't play season. Ladies sailor, it's not a style, and even Lana turned a smile. Something he can't see. My baby just cares, who knows it. My baby just cares for me. Vai, Biascicone! Dai, dai! Vai, tranquillo, vai, vai! Something he can see. My baby just gets fun. My baby just gets fun. My baby just gets for me. Radio Forte, 100 celle Avengers, sempre in diretta quando se n'è andata da mo, la prima ora di divertimento, volevo dire quella frase, invece ho guardato l'orologio. E quindi niente, sì. Passo subito la parola a The Beautiful Mind, Franci, dalle retrovie. Oh, salve, salve a tutti. Allora, innanzitutto vi sentire più quadrati? Finirò questo 45 quadro. Sì, famo che sì. Chi muore tondo non può dire com'è? Sì. Chi nasce tondo. Nasce mare quadrato. Mare quadrato. Ma chi nasce al tufello può morire al quadraro. Allora. L'abbiamo già irritato comunque. Risata. Allora, con questo nuovo anno. No, niente. Che è successo? Lo guardavo dicendo dillo la sigla, ma lui sta facendo ancora l'introduzione perché l'abbiamo già interrotto. Una piccola introduzione, poi fanno la sigla. Welcome. Allora, visto che ogni volta io vi rompo i maroni con questa storia del Teorema di Gödel, ogni tanto ve lo dico, allora ho pensato che con l'anno nuovo, no? Forse magari sarebbe il caso che vi spiegassi che cos'è questo benedetto Teorema di Gödel. Sì! Siete curiosi? Sì! E allora, sì. Sigla! Biascicone? Piacicone, la sigla. Niente, ma non disse. Nel corso della nostra esistenza andiamo alla ricerca di parole che riescano a descrivere adeguatamente le continue perturbazioni dell'ordine e del caos dell'intero tessuto del cosmo. Auspichiamo la conoscenza, la rivelazione, la catarsi. Per questo esiste la filosofia. Ma la filosofia si fonda sulla matematica e solo la matematica può farci intuire la verità dell'universo. Avete fatto altro che scrivere tutti i numeri di 216 cifre tentando di decifrarli, di intonarli. Non è vero? Quel numero non è niente. Non siete voi prescelti. L'ho trovato io! E io solo l'ho capito. Sarò io a vedere Dio. Ma mi sembra un po' fuori del programma e poi magari non a tutti interessa. Sì, sì, interessa. Un pochettino più bassa la. Niente, oggi leggermente più bassa il sottofondo, grazie maestro. Possiamo dire che questo nuovo ingresso di viola nel nuovo anno. Ma distratto, professor. Aumenta l'entropia. Stavamo ripetendo con Gabri l'alfabeto muto. Cioè, è una classe proprio indisciplinata, professore. La prossima volta effettivamente potrebbe essere più utile. Le faccio tutti, ragazzi. Bastoni! Forse può manco più fa. Allora, cari punti lagrangiani nello spazio, benvenuti a Welcome to Grand Hotel Hilbert, la rubrica che, se fate qualche errore di calcolo delle derivate, so cazzi amari, manderà. Soprattutto se avete già passato Meccanica Nazionale 1, Fisica 2 e 3 e li dovete ancora verbalizzare, ma questa è un'altra storia. È il mio caso. Come trascorsi, niente. Come fatto già in passato per alcune delle puntate di questa rubrica, anche per questa, diciamo, lo spunto e sostanzialmente il materiale l'ho preso da quel meraviglioso libro che è Matematica Rock di Paolo Alessandrini, a cui faccio volentieri la marchetta perché se la merita tutta. Prego la nostra regia, che non esiste, di inquadrare il libro e noi possiamo iniziare così. Prego maestro, mandi anche il primo contributo. Ma 9 per 9 farà 81. Scusi maestro, si è sentito veramente basso. È basso però. Ma 9 per 9 farà 81? Chiedo la replica, ok. Ma 9 per 9 farà 81? Perché non fa 81? Non ci resta che piangere. Allora, avete presente la canzone 2 plus 2 is 5 di Radiohead? Mm-hmm. Allora, nella prima strofa della canzone, mi sembra che stesse in Hail to the Thief, credo, non mi ricordo bene, però. Nella prima strofa della canzone, York si presenta con presenta un perfetto mondo orwelliano in cui la verità è stata capovolta e la menzogna è invece accettata dalla maggioranza, la quale non è più disposta a lottare per ristabilire la giustizia. Ora, che 2 più 2 faccia 5 e che sia una falsità matematica è una cosa evidente, e a tutti pare ovvio che sia impossibile dimostrare una simile affermazione se si parte da ipotesi vere e si utilizzano ragionamenti corretti. Insomma, se l'edificio della matematica è basato su solide fondamenta, non deve aprirsi alcuna crepa. Ma? Ma? Sul finire dell'Ottocento questa convinzione si fece molto forte e i matematici, che sapete che se la sentiamo particolarmente calda in quel periodo, sentirono la necessità di rifondare in maniera rigorosa alcune parti della loro disciplina, come fosse un edificio solido e ben piantato a terra. Innanzitutto si accorsero che serviva un insieme di regole di inferenza, ovvero una specie di decalogo del ragionare bene, le leggi da rispettare per dedurre rigorosamente un'affermazione o una proposizione matematica ad altre affermazioni già dimostrate. Una proposizione ridotta osservando le regole di inferenza prende il nome di teorema, mentre il modo in cui le regole di inferenza sono state usate per ricavare la proposizione stessa costituisce la dimostrazione del teorema. Infatti, quello che probabilmente non si sa è che molte proposizioni matematiche sono ritenute vere dalla maggior parte degli esperti, eppure nessuno non è ancora riuscito a trovare i passaggi logici corretti per dimostrarle, e per questo non possono fregiarsi del titolo di teoremi, ma vengono chiamati ipotesi o congetture. Ce ne sono di famose, ovviamente nella matematica, la congettura dei numeri primi gemelli, quella di Goldbach, quella di Collatz, e l'ipotesi di Riemann, ma che magari forse questa avete sentito. Tanto mica per... solo nella matematica, che ti credi? Che vai a Arbari e dici, senta un po', ma hanno dimostrato l'ipotesi di Riemann. È argomento di conversazione. Se un bel giorno qualcuno per esempio riuscisse a dimostrare la congettura di Riemann, oltre a intascarsi il milione di dollari messo in palio dal Clay Mathematics Institute e diventare una superstar scientifica a livello planetario, potrà vantarsi di aver elevato quella congettura al rango di teorema. Da quel momento in avanti, infatti, nessuno potrà più mettere in dubbio quell'affermazione. Ora, maestro Biascicone, ho bisogno di te. Nel 2015 il matematico spagnolo Eduardo Sáenz de Cabezón. Biascicone la pronuncia per noi. Questa, per continuare la rubrica, le faccio pronunciare da altri. Questa live addirittura. Ha divertito il mondo con uno spassosissimo monologo di 10 minuti intitolato A cosa serve la matematica, che già tipo solo il titolo, che si è concluso con un utile consiglio agli spettatori, e cioè: se volete dire a qualcuno che lo amerete per sempre, potete regalargli un diamante, ma se volete dirgli che lo amerete per sempre, sempre, sempre, regalategli un teorema. Un momento però, dovrete dimostrarlo in modo che il vostro amore non resti una congettura. Questa faccenda dei teoremi e delle... Troppa fatica, fatelo dire. Questa faccenda dei teoremi e delle dimostrazioni tuttavia sembra nascondere in sé un difetto. Per dimostrare un teorema abbiamo visto che servono anche i teoremi precedentemente dimostrati, ma anche per dimostrare questi ultimi abbiamo bisogno di altri teoremi già provati, e così via. Per fermare una catena che così sarebbe infinita abbiamo bisogno di verità di partenza per le quali non sia necessaria alcuna dimostrazione. Tali affermazioni, che non hanno quindi bisogno di alcuna dimostrazione, sono chiamate assiomi. Dunque, possiamo aspettarci di innalzare quel famoso edificio della matematica in maniera assiomatica, cioè utilizzando gli assiomi e le regole di inferenza come fondamento, e lasciando che il palazzo si costruisca da solo generando meccanicamente tutte le verità dimostrabili. Bene, adesso arriviamo al cuore della questione. L'insieme degli assiomi, delle regole di inferenza e dei teoremi si chiama sistema formale. Possiamo pensare questo sistema formale come una sorta di macchinario che sulla base degli assiomi e delle regole di inferenza date in input riesca man mano a dimostrare i teoremi da essi ricavabili. Una volta azionato tale macchinario, se tutti i teoremi ricavabili vengono dimostrati, il sistema si dice completo. Si dice invece coerente se tutti quelli dimostrati sono anche corretti. Ad esempio, se dovesse tirar fuori un teorema in cui dimostra che 2 più 2 è uguale a 5, allora c'è qualcosa che non va. Insomma, il sistema formale ideale dovrebbe essere sia completo che coerente, e possiamo pensarlo come il testimone ideale in un processo, cioè quello che dice tutta la verità e nient'altro che la verità. Ma siamo sicuri che il nostro macchinario, una volta premuto il pulsante di avvio, dimostrerà tutte le verità senza inciampare in alcuna falsità? No. Se la risposta fosse affermativa, attenzione che qui è figo, vorrebbe dire che che dimostrabilità e verità sono la stessa cosa. Quindi, un'affermazione di argomento aritmetico, per esempio 2 più 2 è uguale a 4, è vera? Benissimo, allora è sicuramente dimostrabile dal sistema, perché il sistema è completo. Un'altra affermazione, per esempio 2 più 2 è uguale a 5, è falsa? Ottimo, siamo certi che non sarà dimostrata dal sistema, perché il sistema è coerente. Lo scopo di dar vita a un sistema formale coerente e completo fu l'obiettivo del cosiddetto programma di Hilbert, al quale lavorarono alcuni dei maggiori matematici all'inizio del Novecento. Il sogno di Hilbert era quello di affondare le radici di tale sistema perfetto nell'aritmetica, per poi utilizzarlo per formalizzare l'intero universo della matematica. Ma, purtroppo, o per fortuna, chissà, il sogno di Hilbert si infranse pochi anni dopo, nel 1931, quando a sorpresa il giovane logico matematico austriaco Gödel, che tra l'altro compare in Oppenheimer, dimostrò rigorosamente che un sistema formale aritmetico può essere completo o coerente, ma non può essere entrambe le cose. Pertanto, potrà essere completo, cioè in grado di provare tutti i teoremi aritmetici, ma allora sarà sicuramente infettato da qualche incoerenza interna. Oppure potrà essere coerente, cioè esente da contraddizioni, ma in questo secondo caso non riuscirà a dimostrare tutte le verità dell'aritmetica. Il giovane austriaco, quindi, mostrò che in matematica verità e dimostrabilità sono concetti ben diversi. Per quanto possa sembrare sconcertante, esistono affermazioni indecidibili, cioè che non possono essere né dimostrate né confutate. Bene, anche oggi il vostro soggiorno al Grand Hotel Hilbert si conclude qui, lasciandovi con questa murale. Quando rimanete impallati a rimurginare e non ne riuscite a riemergere, tenete bene a mente che magari quello a cui state pensando non è né smentibile né confermabile, ma magari semplicemente indecidibile. Quindi, ma che ci pensate a fa'? Ma come fa? Ma come fa? Allora, adesso torno per un attimo serio, perché il brano di chiusura lo volevo dedicare al piccolo cavaliere nero Musashi, che da qualche giorno galoppa felice, libero dalle praterie nuvolose, scorazzando, me lo immagino a scorazzare con Cerbero e a mozzicare i cavalieri santi. Bravo Muso, così si fa. Bravo Muso, continua così. Gli mandiamo una carezzina e niente, vabbè, lo ringraziamo per tutto l'affetto che ci ha regalato. E quello, vabbè, che solo gli animali sanno darti senza limiti. Allora, il brano che voglio mandare è l'Alleluia, ma non è l'Alleluia di Jeff Buckley, ma è il brano di chiusura di quel capolavoro di lungometraggio animato dall'articolo All Dogs Go to Heaven, che in Italia è conosciuto come Charlie, anche i cani vanno in paradiso, del grande Don Blatt. E se non l'avete visto, recuperatelo, perché è bellissimo, è molto commovente, adesso. Quindi sappiate che piangerete come delle fontane. E niente, questo è per te, Muso. All Dogs Go to Heaven. Radio Forte 100 Celle Avengers, sempre in diretta in questa domenica 11 gennaio del 2026. È il momento di passare da una pezza all'altra, nel senso di scuola, quindi se prima eravamo nell'ora di matematica, adesso è giusto che torni la letteratura, al grande ritorno della maestra Viola, alla quale passo la parola con un applauso. Un applauso. Grazie. Mi sembrava un po'... Parlo doppio. Sono molto felice di essere con voi questa prima puntata dell'anno. Dovevo esserci per forza. E allora, detto questo, oggi parleremo di... Parlerò prima di uno dei maggiori cantautori italiani, che diciamo ieri è stata la data 10 gennaio, appunto la data dell'anniversario della sua morte, e sono 27 anni che ci ha lasciato. E mi ricollego dall'Hotel Gilbert qua. Yes. Sì. A Hilbert, scusate. Al signor Hilbert. Il signor H. Dico Hotel Supramonte, quindi avete capito di chi si tratta? Ma già lo sapevate, quindi è facile. No, io non lo sapevo. Ah, però è stata una bella sorpresa. Ed è André. Ed è André, hai visto? Mi ricollego di prima e rilancio il collegamento al maestro Dani. Al brano inedito di André che abbiamo sentito. Sì, diciamo un breve excursus su questo brano che poi reciterò come una poesia. E scritta da appunto da De André, e un'unica testimonianza emotiva del sequestro che visse insieme alla compagna, la moglie Dori Ghezzi. E infatti la stessa Ghezzi rivela che Fabrizio la concepì la notte della loro separazione, quando i carcerieri liberarono lei e tengono ancora prigioniero. Ah, scusate. Raga, ma perché adesso tutti, no, la guardavano in cagnesco. Abbiamo interrotto il flusso, lo sappiamo. Però e quindi, è che digressione, aspetta, che digressione, vabbè. Emozionale. Sì, perché il nome della tua rubrica. Ecco, sì, sì. Allora, ragazzi, ho una rubrica, c'è cioè un nome che ha un nome, che ha una sigla bellissima. E quindi, maestro, sigla. Lasciatemi no, leggere. Leggere. Ho voglia di sentire questa poesia. Mo per sì, allora, la rubrica adesso sì. La rubrica è music e poetry, giusto per... Allora, stavo dicendo... Stavo raccontando di questa, diciamo, della nascita di questo bellissimo pezzo di André, quindi concepita appunto la notte, racconta appunto la Dora Ghezzi, che è stata concepita appunto da De André la notte in cui ci fu questa separazione, quindi diciamo liberarono lei e tennero ancora prigioniero lui, e entrambi drammaticamente incoscienti, diciamo, del loro destino. E diciamo nei momenti più terribili di tutta quell'esternante esperienza a cui siamo sopravvissuti solo grazie alla presenza dell'altro, così ha affermato Ghezzi. Per raccontarla, Fabrizio prende a prestito un brano in realtà già composto da Massimo Bubola nell'inverno del 1978, un anno prima del rapimento. E diciamo questa canzone, per curiosità, all'inizio aveva il nome, il primo nome era Hotel Miralago, che diventa poi Hotel Miramonti, prima di risorgere come Hotel Supramonte. Maestro, il riverbero. Giusto un po'. E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. È una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse, accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta, col tuo ordine discreto dentro il cuore. Ma dov'è? Dov'è il tuo amore? Ma dove è finito il tuo amore? Grazie al cielo ho una bocca per bere, e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'Hotel Supramonte, dove ho visto la neve sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione senza far male, passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. Ma dov'è? Dov'è il tuo cuore? Ma dove è finito il tuo cuore? E ora siedo sul letto del bosco, che ormai è il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perché domani sarà un giorno incerto di nuvole e sole. Ma dove? Dov'è il tuo amore? Ma dove è finito il tuo amore? Grazie. Ma come va? Bellissima, bella, bellissima, veramente molto molto emozionante. E allora, il secondo cantautore di cui vi parlerò oggi è, diciamo, l'anniversario della sua morte invece è stato il 9 gennaio, e considerato, diciamo, uno dei cantautori più influenti del Novecento. E sto parlando del Duca Bianco, di David Bowie. e parlerò diciamo in particolare di questa canzone, che è considerata anch'essa come una poesia, e che è Eros, dall'album omonimo del 1977, e che è hanno dichiarato appunto che è una dichiarazione di amore e coraggio. Allora, Eros di David Bowie è una canzone iconica che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica. Pubblicata nel 1977 nell'album omonimo, la canzone è diventata un inno di speranza e resilienza che ha ispirato generazioni di ascoltatori. Eros è stata scritta durante un periodo di grande tensione politica e sociale, quando il muro di Berlino divideva fisicamente in due parti la città. E la canzone cattura perfettamente il clima di quegli anni, in cui il mondo era diviso, alla fine, proprio come ora. E l'incertezza permeava l'aria. La canzone è diventata simbolo di speranza in un momento in cui sembrava che la speranza fosse difficile da trovare. Il testo di Eros è aperto a diverse interpretazioni, ma molti ritengono che sia una dichiarazione di amore e coraggio. David Bowie stesso ha dichiarato che la storia raccontata gli fu ispirata da due amanti che si incontravano sotto la torretta di guardia del muro di Berlino. Secondo il suo produttore, era lui stesso ad avere una storia con una ragazza con cui si vedeva segretamente. Nonostante la separazione fisica e le difficoltà, i due amanti si sentono eroi nel momento in cui sono insieme, in virtù della potenza dell'amore che va oltre le differenze e i muri. Questa narrazione romantica è stata interpretata anche come una metafora più ampia per l'unità e la resistenza contro le divisioni del mondo. La voce di Bowie è carica di emozione, trasmettendo la passione e la forza del messaggio della canzone. La chitarra di Robert Fripp, dei King Crimson, contribuisce a creare un suono distintivo e inconfondibile. L'arrangiamento dinamico della canzone, che va da momenti di calma e esplosioni di energia, riflette il tema della speranza che può emergere anche nelle circostanze più difficili. Eros è diventata una delle canzoni più riconoscibili e amate dal repertorio di Bowie. La sua combinazione di testi potenti e innovazione musicale ha reso questa canzone un'icona senza tempo. La frase "We can be heroes just for one day", oggetto di meme e tatuaggi, è stata ed è stimolo per una vita attiva in tutte le sue forme, a ricordarci che ciascuno di noi può fare la differenza, per quanto piccolo possa sentirsi. Tutti possiamo essere eroi, anche se solo per un giorno. L'atto di coraggio è andare contro tutto ciò che vorrebbe dividerci. Vale per gli amori ostacolati, separati dai muri. Vale per i popoli separati dai confini e dalle guerre. E grazie, io ho finito, ma non prima. Grazie, grazie. Ma come fa? È stato molto bello. Ma come fa? Grande ritorno. Chi lo sa, chi lo sa. Grazie, grazie. Allora, prima di salutarci, io manderei appunto il maestro, grazie al maestro, il brano appunto di cui ho parlato poc'anzi, Eros di David Bowie. We'll be right back. su Radio Forte, gente, c'è le Avengers. Visto che c'è il diritto alla vendetta, nella puntata prima ho aperto con Canta Responsabilmente e questa volta invece sto alla fine. Ah, così? Ah, la vendetta! Ottimo posto! Volevo aprire con due ringraziamenti. Uno ovviamente a Franci per la meravigliosa dedica a Musashi, il mio cagnolino, che se n'è andato il 31 gennaio del 2025, anziano e guerriero, dopo una vita lunghissima e bellissima per un cane. E fra 70 anni avrete anche i diritti sulla sua musica. Io sì, dimmi che ha scritto qualcosa. Ovvio. E il secondo ringraziamento è per il maestro Suano, che ha passato il Natale a comporre, mixare, cantare e montare la sigla nuova per la rubrica Canta Responsabilmente. Quindi direi che adesso posso farvela sentire. Maestro, sigla! Lo dico io di cosa parla Lecchi Vergine. Parla di una ragazza che rimorchia uno con una fava così. Che cazzo stavo dicendo? Hai detto che True Blue parla di una ragazza sensibile che conosce un bravo ragazzo. Invece Lecchi Vergine è una metafora della fava grossa. Ah sì? Sì, fate perdere il filo. Sento solo la melodia, non è col testo. Ma scopro cosa dite e ti resto male un po'. Per esempio con Sting, Sting, Sting, ti cantavo Every Great New Day, prima di scoprire che parlava di una stalker e di un amore classico. Canta responsabilmente. Da piccolino quel motivo mi piaceva di più, a rovinare i miei ricordi mi ci mancavi tu. Canta responsabilmente. La parola tu fan e buon uso. Canta, canta, canta responsabilmente. Su canta la vecchia. Canta responsabilmente. Su canta la vecchia. Canta responsabilmente. Io direi un applauso per il maestro Suano e gli Abri, che l'ha cantata. Bravi, bravi. Sì. Questa persa poi canta Usignol, capolavoro. No, una meraviglia, bellissimo. L'incursione di Ursula, scusa Betty. No, no. No. E insomma, che stiamo a dire? Benvenuti piccoli musici. Oggi andiamo in chiesa, o forse no, con Osier, cantautore e musicista irlandese, reso famoso nel 2013 dal suo singolo Take Me to Church. Come sempre, al contrario di quanto suggerirebbe il titolo, perché io vi rovino il Natale, Take Me to Church è tutto tranne che un pezzo di stampo ecclesiastico, anzi, è un pezzo che parla di una che incontra un tizio con una fava enorme, come lei che è vergine. No, scherzo, ma neanche... No. Ma guarda, neanche troppo. Oh, no. Perché Osier, infatti, lo pensò come un pezzo di celebrazione della sessualità e di critica, in maniera quasi umoristica, della visione offerta dalla religione e in generale di quel modo in cui certe organizzazioni potenti, come quelle religiose, usino la sessualità come mezzo per mettere le persone contro le donne, le persone omosessuali, contro tutto ciò che non è nelle loro corde, adducendo come giustificazione motivi religiosi. Il video stesso del pezzo rappresenta due ragazzi, amanti, che vengono cacciati e inseguiti da dei tizi incappucciati. Ma andiamo a vedere il testo. La mia ragazza ha senso dell'umorismo, è la risatina a un funerale, quella che ha la disapprovazione di tutti, avrei dovuto venerarla prima. Dai, ce l'avete tutti quello zio, su. Quello che durante un funerale, mentre recitano il mea culpa, mea grandissima colpa, invece di battersi il petto, indica voi, facendovi fare una risatina e costringendovi a tirargli un calcio per farlo smettere. Beh, ce l'aveva anche Osier. E parlava proprio di questo, dei ricordi di quando da bambino aveva partecipato a celebrazioni religiose in occasioni tristi e di quella persona che vedeva affrontare quel dolore con una risata. In questo caso, la ragazza di cui parla la canzone, se ci pensate c'è una profonda libertà in questo, nell'affrontare il più grande dei dolori con una risata. Se mai il cielo ha parlato, lei è la sua ultima vera portavoce, dice. Alla faccia di sacerdoti e gerarchie, afferma che per lui è proprio la voce di questa ragazza, di lei, la voce di Dio in terra. Ogni domenica diventa più cupa, un nuovo veleno ogni settimana, siamo nati malati, li hai sentiti dire. E qui arriva la critica di una certa visione religiosa che punta il dito verso le persone chiamate malate solo perché fuori dai propri canoni. Canoni tra l'altro decisi spesso neanche dalla base religiosa, cioè dalle parole dei testi sacri, ma da interpretazioni successive che vanno anche contro l'insegnamento principale della religione stessa. Personalmente sono sempre più convinta che nel caso specifico che Gesù Cristo scendesse in terra adesso ribalterebbe i tavoli al Vaticano, incazzato nero con determinate prese di posizione, considerato che l'unico comandamento che ha lasciato è stato amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Continuando, la mia chiesa non offre assoluti, lei mi dice venerami in camera da letto, l'unico paradiso in cui verrò mandato è quello dove sono quando sono solo con te. Sono nato malato, ma questo mi piace. Comandami di stare bene. Osier se la ride addirittura in un'intervista parlando del fatto che spesso la sua canzone viene ritrovata in playlist cristiane e si meraviglia molto di come, se non altro per queste parole, non fossero bastate a squalificarlo da quel tipo di playlist. Amen, amen, amen. In questo punto del pezzo c'è una cosa interessante a livello musicale. Gli amen di qui sopra usano quella che viene chiamata cadenza plagale o, secondo alcune fonti, anche detta cadenza amen. Anzitutto, cos'è una cadenza? Io ci provo, non mi trattate male se dico cazzate. Come dice la parola stessa, è dove cade, cioè dove si chiude la frase musicale. Esistono diverse cadenze, ognuna ha il suo nome. Plagale, perfetta, sospesa, addirittura c'è la cadenza di inganno, chiamata così perché invece di risolvere sulla tonica inganna l'ascoltatore andando su un altro accordo. In questo caso specifico il quarto grado, do maggiore, che cade sul primo grado, sol maggiore, si chiama cadenza plagale e viene spesso usata proprio per gli amen nella musica sacra. Nei primi due amen di questo pezzo viene usata proprio come proprio questa cadenza, ma nel terzo, in segno di prudenza, di protesta, la cadenza viene sporcata utilizzando il sol minore invece del maggiore, ma possiamo sentirlo perché abbiamo un contributo. Amen, amen, amen. È una piccolezza, però sottolinea con la musica quello che intende col sentire. Hai capito, signor? E non è l'unica particolarità musicale di questo pezzo, ad esempio è in tre quarti, ma ascoltando bene vi accorgerete che è abbastanza sghembo. In vari punti infatti ci sono delle singole battute in quattro quarti, ad esempio nel contributo che maestro mi mandi. Tells me worship in the bedroom, the only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Questo c'entra meno col senso, ma era carino da far sentire. Andando avanti, arriviamo finalmente al ritornello, il Take Me to Church. Portami in chiesa, ti adorerò come un cane sotto l'altare delle tue bugie, ti confesserò i miei peccati e tu potrai affilare il tuo coltello. Offrimi quella morte senza morte, oh buon Dio, lascia che ti offra la mia vita. Qui, al di là del palese riferimento alle bugie della religione, all'atteggiamento servile dei credenti, troviamo una critica all'usanza della confessione e un simpatico doppio senso. Quando infatti parla di deathless death, cioè morte senza morte, potrebbe sembrare si riferisca all'offerta del paradiso e quindi ad una morte che porterà una vita eterna, ma come dicevamo non è un pezzo religioso e quello a cui si riferisce è l'orgasmo. Già, perché i francesi la chiamano le petit mort, cioè la piccola morte. E non l'ho detto io, lo dicevo oggi in un'intervista, non va, piate con me. Se sono un pagano dei tempi andati, la mia amante è la luce del sole. Per tenere quella dea accanto a me esige un sacrificio. Prosciuga tutto il mare, prendi qualcosa di luccicante, qualcosa di sostanzioso per il piatto principale. Qui fa un riferimento al Vaticano, perché in inglese la Santa Sede si chiama Holy See, con See scritto come vedere in inglese, cioè S-E-E, e fa quindi un gioco di parole con See scritto come mare, e di qui prosciuga tutto il mare e prendi qualcosa di luccicante, riferendosi agli ori del Vaticano che aveva visto da bambino quando l'aveva visitato. È un bellissimo alto cavallo. Cosa hai trovato nella stalla? Abbiamo un sacco di fedeli affamati. Sembra gustoso, sembra abbondante. Questo è un lavoro da affamati. Speaking from a high horse, cioè parlare da un alto cavallo, è un'espressione idiomatica inglese che significa parlare con arroganza e saccenza, come qualcuno che ti parla dall'alto in basso in groppa a un grande e lussuoso cavallo. Giocando con questa immagine, Osier pensa di prendere quel cavallo, metafora di un'altezza morale che un'organizzazione del genere non può permettersi dato il suo passato di abusi, e darlo in pasto letteralmente ai fedeli. E infine, Nessun padrone o re quando inizia il rituale. Non c'è innocenza più dolce del nostro gentile peccato. Nella follia e nel suolo di quella triste scena terrena, solo allora sono umano, solo allora sono puro. Il pezzo si conclude così, con un'immagine molto graziosa dell'atto sessuale, sottolineando che in quell'attimo, veramente e finalmente, il protagonista si sente umano e puro. Siete d'accordo con la mia interpretazione o avete visto altri significati? Scrivetecelo su Telegram. Nel mentre vi lascio con il pezzo in questione, Take Me to Church di Hozier. My lover's got humor, she's the giggle at a funeral, knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog. Sempre in diretta su Radio Forte, 100 Celle Avengers a gamba tesa oltre le 9, tanto che ci frega, poi la montiamo, tanto noi... Sì, però c'è cioè il canale Telegram che è in subbuglio, cioè, sono proteste perché qui cioè, almeno la serietà insomma, dell'inizio anno, poi possiamo sbaccare come al solito, ma c'è una precisazione da fare, quindi passo la parola alla maestra professoressa Viola. Sì, no, perché siccome stavo raccontando ai ragazzi che è come se avessi vissuto due giorni in un giorno solo, grazie alla nostra Julie, è il suo compleanno di sera, che è finito stamattina. Auguri Julie! Ed è durata tutta la notte. Si parlerà di lei. Baldoria, sì. E no, quindi che mi sono confusa. Allora, oggi è 11, quindi oggi è la data, diciamo, dell'anniversario della morte di André. E ieri la scomparsa, sì, grazie. E ieri invece è di quella di Bowie. Quindi è una buona notizia, okay, sono ancora 10, più vicini 10 alla e 11. Puntata. Sì, sì. Sembra fatta sì, apposta, sì, sì. Se non dicevamo niente. Avevo detto invece altre date così. Così a caso. No, a caso no, avevo È tipo il protto marzolino di Alice, capito? Era andato indietro, non lo so, me l'ho confusa. Il protto bisestile. Oh, okay. No, ma... Marzolino è del libro. Ah, scusa. Bisestile okay. del film. Direi che vabbè, allora scusate. È stata fatta su Radio Forte 100 Avengers. Ti ringrazio comunque perché è stato un gancio con Julie. Con Giulina. Alla quale, sì, oltre a fare gli auguri, applauso, andiamo a estorcere una esibizione degli anni che furono. Attenzione, la prima esibizione di Julie è con la noi. Prima, c'è sempre un primo compleannone di che qualcosa, ma soprattutto poi è un'altra volta una questione in tema, quindi cioè, ci tenevo a chiudere la puntata con sempre Ligi al nostro dovere. I morti del 50, perché andiamo ad ascoltare, ma scusate, mi sto dimenticando proprio io di mettere la sigla, perché cioè tutto ciò perché Giulio stava con noi, quindi che succede? Noi abbiamo una rubrica che parla di chi suonava con noi o ha suonato con noi e l'ha fatto nei saggi che non ricordi di aver fatto. Insomma, tutto questo è Centocelle Marcord, sigla. Ricordati di te com'eri prima. Pure estate fa. L'anno vecchio è finito ormai. Pure estate fa. Tutti quanti stiamo già aspettando. Pure estate fa. Messaggio che è un nuovo anno. Mi ricordo che anni fa. Pure estate fa. Secoli fa. Noi non sapevamo a che distanza stava attorno a merda. Quindi era più che scusato. E niente, vabbè, utilizzo questa cosa così a caso. Torniamo. È la rubrica che tutti vogliono sentire. La rubrica di Julie, appunto. Parliamo di Julie che fece un pezzo che, vabbè, togliamo Beyoncé, comunque tornerà su questi schermi. Dicevo, esegue Dream, Little Dream of Julie, no, of Me. Pezzo che mi rientra sempre nel regolamento, quindi del 1930, e mi ritorna il vecchio Gustavo La Pizza. Che è paroliere, a questo punto è il mogol di quel momento, e quindi ci ha messo lui, credo, lo zampino tale che mi risulta al 30, quindi mi risulta valido, buona, questa c'è. E niente, io poi ho fatto, cioè, perché ci sono proprio impazzito a questa cosa del doppio meccanismo, ma così a caso, e quindi ho cominciato a pensare che, cioè, comunque la razza umana fosse più o meno la stessa fra i due emisferi, cioè al di là che il meccanismo si pervenisse a una soluzione simile, cioè più o meno fai gli stessi soldi che fai, e quindi sono andato a vedere quando sono morti, cioè se per caso si avvicinavano ad essere anche morti nel 55, no. Ma no, questo non è stato possibile, c'è stata una piccola classifica per cui i tre autori, Fabian André, Wilbur Suchant e Gus Kahn, il vecchio Gustavo, mi sono morti uno nel 41, uno nel 60, il vecchio Wilbur Suchant aveva resistito fino al 98, quasi per vedere appunto i suoi redditi scendere, e è morto pure lui. Ma come, quindi, si permette? Niente, per tirare le somme della puntata direi che solo Macaulay Culkin, secondo le mie ricerche, potrebbe aver pubblicato e vedere la fine della sua pubblicazione per 95 anni, perché aveva avuto 5 anni, cioè, insomma, il presupposto era che ne aveva 8. Quei 20 anni in meno fra 95 e 70 sono quelli che normalmente servono per raggiungere un'età in cui pubblichi qualcosa. Invece Macaulay me l'ha fatto a 5 anni, quindi tra 95 anni potremmo tutti dire Kevin! così in senza libertà. Pagare quei soldoni. Ma che nel frattempo, ascoltiamo, come dicevo, Dream, A Little Dream of Me. Nell'ultimo saggio, posso dire, primo saggio di Julie, ma ultimo saggio che ho fatto dalla scuola prima del Covid, con tutto il romanticismo che ci lega alla nascita di questa trasmissione e di questa radio anche, direi. E quindi ci rituffiamo nel 2020, quando succedeva questo, prima o poi lo trovo, Dream, A Little Dream of Me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream. Radio Forte 100 Cielo Avengers, quando si è fatta una certa, ringraziamo e salutiamo di nuovo Julie. Auguri! Ciao Giulina! E niente, fiduciosi. Come sfiduciosi che andremo in onda fra due settimane precise. Lo faremo, lo faremo. Con tanto di appunto rubrica col segno astrologico. Noi che sì, crediamo tutti all'astrologia. vabbè, pluralità, cioè siamo sei redattori, no? L'astrologa. L'astrologa, giusto. Ecco. Loca, loca. Non mi ricordavo neanche il nome della rubrica. Qualcuno, cioè, gli avevamo dato. L'astrologa è il nome della rubrica, pensavo che era il nome suo o d'arte. No. Niente, ha fatto solo una puntata, se non sbaglio. Un gioco del logo alternativo, pensavi. Comunque, detto ciò, direi di salutarci, ricordare che questa puntata è anche possibile ascoltare, cioè, quindi vuol dire che dopo la posso risentire, pure che, capito? Capito? La parola no, stessa, podcast. Sul sito del Forte / Radio Forte c'è tutto il nostro essere. E con questo vi voglio bene e vi saluto alla prossima incredibile puntatona. Ciao! Tra due settimane! Ciao!